In Italia negli ultimi 30 anni sono morte sulla strada oltre 200.000 persone, l'equivalente di una città come Padova. In strada non si muore per caso, ma perché troppe volte non vengono rispettate le regole. Pensateci quando guidate. E a tutti l'augurio di viaggi sereni e di vacanze coi fiocchi. Da Piero Angela. Quest'estate sulle strade dai un passaggio alla sicurezza. Vacanze coi fiocchi a tutti.